Come state allora? Tutto bene? Com'è andata la vostra settimana? È stata una bella settimana, avete visto tanti cuori in giro? Settimana di febbraio importante, no? San Valentino, la festa degli innamorati, il mese in cui si celebra sempre l'amore. Però oggi lo faremo ancora insieme perché volevo proprio parlarvi di amore. Forse non come te l'aspetti, perché anche per me è stato un percorso importante anche affrontare questo argomento. Però sapete, tutti parlano di amore, amore, amore, poi alla fine dobbiamo un po' concretizzare e capire che cos'è, almeno qual è il punto di vista di Dio su questo, perché noi viviamo Lui, confidiamo in Lui, anche questo aspetto della nostra vita gli appartiene, quindi dobbiamo conoscere di più il suo punto di vista piuttosto che quello che ci viene raccontato, no? Quindi niente baci Perugina. Quanti hanno ricevuto baci Perugina? Oh, anch'io! Oh, sono buoni però, non è che sono brutti. Volevo fare solo, come si dice in termine tecnico, un disclaimer, perché la giacca non è una mia scelta. Mia moglie ha detto metti la giacca, io mi sento un po' il direttore delle poste così, però avrei scelto volentieri la felpa di Luca Vilei, però vabbè. Sembra che con la giacca dici cose serie, quindi va bene così, spero che abbiate l'attenzione sufficiente per poter ascoltare quello che il Signore vuole dire al nostro cuore oggi. Come dicevo, parliamo di una storia, un bel episodio in cui si dimostra l'amore, ed è un episodio che abbiamo sentito spesso anche le scorse settimane quando il pastore ha predicato anche sulla nostra visione dell'anno, tu, non io. E questo passaggio è quello della donna peccatrice che si trova in casa del fariseo Simone. Vi ricordate questo? Facciamo un ripassino, lo leggiamo insieme in Luca 7 a partire dal verso 36. Allora, uno dei farisei, era Simone, lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola ed ecco una donna che era in quella città, virgola, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava e ripaciava i piedi e li ungeva con olio. Andiamo al verso 47. Perciò io dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna, i tuoi peccati ti sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. È un episodio bellissimo, no? Emotivamente molto forte. Credo che sia uno dei passaggi, quasi una fotografia, no? Che l'evangelista Luca ci descrive. Luca è bravo a scrivere, anche quando lui ci dà anche la definizione di questa donna, no? La definisce così, no? La descrive così. Una donna, virgola, una peccatrice. Ricordiamoci questa cosa perché sarà importante anche per dopo. Luca è bravo, diceva, tant'è che poi lo Spirito Santo ha detto sei così bravo che ti rinnoviamo il contratto, scriverai gli Atti degli Apostoli. E gli hanno fatto fare la seconda stagione. Però è veramente descrittivo, è una fotografia straordinaria che Luca ci fa. Immaginatevi la scena, no? E questo posto, la casa del fariseo, quindi che sia non me la immagino, insomma, tutta super bella, piastrellata, eccetera, ma un posto molto bello dove probabilmente il fariseo viveva e aveva invitato le persone che erano in quel momento con Gesù e anche per interrogare Gesù, voleva conoscere di più di Gesù, visto che qualche racconto prima aveva resuscitato qualcuno, no? Quindi, scusate. La fama di Gesù era esplosa, quindi lui era molto curioso di conoscere il Signore, il Maestro, e quindi l'aveva invitato a casa sua a pranzo, invitando anche le persone che poteva, insomma, probabilmente la sua cerchia ristretta. C'erano sicuramente con lui discepoli, quindi insomma una stanza molto affollata, io lo immagino molto così. E Gesù che parlava, e il fariseo probabilmente poneva delle domande, perché lui ovviamente diceva: trovo delle incoerenze tra quello che conosco e quello che vedo. Era scioccato, probabilmente voleva anche comprendere di più, seppure l'atteggiamento è stato molto, no, come conosciamo bene, è stato molto messo in difficoltà Gesù con i suoi pensieri, le sue domande. A un certo punto c'è questa situazione qui, mentre probabilmente Gesù è ancora in piedi, sta parlando a queste persone, in questa stanza affollata. Arriva una donna. Già lì non poteva entrare probabilmente, non c'erano altre donne, quasi sicuramente. La cultura del tempo ci racconta che la donna non aveva nessun privilegio, neanche la possibilità di parlare in pubblico, non c'erano, veniva ovviamente considerata parte dello sviluppo della vita sociale attraverso il ruolo della famiglia. Una donna che non aveva avuto un marito, probabilmente non si era mai sposata, era quello un po' quello che succedeva. Quando una donna non riusciva a prendere marito o comunque non aveva una famiglia che la sosteneva, trovava altri modi per sostenersi. Era una peccatrice. Cioè, entra in questo posto pieno di gente che sapeva bene non l'accettava, non era in benvenuta. E io immagino quanto sforzo possa aver fatto questa donna per entrare in questo posto, perché ha dovuto considerare qual era il clima che c'era lì. Innanzitutto, non so, avrà avuto difficoltà solo per approcciarsi alla porta di quella casa. Tutti che la guardavano, tutti che la giudicavano. Cosa ci fai qui? Sei nel posto sbagliato, oggi non è il tuo giorno, non è il posto per te qui. C'è il maestro. Sei in casa di un fariseo, come ti salta in mente di entrare qui? Non puoi. E intanto però questa donna si fa coraggio ed è così coraggiosa che interrompe probabilmente quello che Gesù stava dicendo, quello che Gesù stava facendo in quel momento, in quella stanza. Entra e le si butta i piedi. E succede questo, che inizia proprio a vivere un momento così prezioso, e tutti si fermano in silenzio a vedere questa scena. Una cosa che questa donna porta con sé è un oggetto che è un po' riprodotto qui, io l'ho portato, mi date un attimo di pazienza che lo scarto, che si dice scarto con no, no, si può dire, lo tiro fuori questa cosa, ok. Eccolo qua. Questo è un vaso di alabastro. Questo è un vaso di alabastro. E devo stare molto attento perché mia moglie mi guarda e mi dice con gli occhi: se tu lo rompi, io romperò te. È un vaso che abbiamo acquistato nel nostro viaggio di nozze in luna di miele in Egitto. Infatti l'alabastro è un vaso che veniva prodotto e viene prodotto ancora in Egitto, ci sono le cave di alabastro, ed è veramente prezioso, ha dei parti di minerali all'interno della pietra che luccicano, è veramente molto molto bello, molto prezioso, perlomeno in termini affettivi, perché non ha un valore commerciale molto alto, però a suo tempo sì, molto. Infatti, perlomeno la stima che si fa di questo vaso da livello commerciale del tempo era il prezzo di 3 stipendi. E quindi era molto alto, probabilmente stiamo parlando di circa più di 4.000 euro, no? Qualcosa del genere. E in più questo vaso era pieno di olio di nardo. O perlomeno agli altri racconti degli altri Vangeli ci parlano di questo, un olio di nardo, un olio che veniva prodotto in Persia. e quindi faceva alzare a dismisura il valore di questo vaso, non solo per il contenitore, ma anche per il contenuto. Questo forse era l'unica cosa che questa donna possedeva concretamente. Non so perché l'aveva tenuto, o perché ha pensato bene di portarlo da Gesù. E ha considerato di prendere questo vaso e versarne il contenuto ai piedi di Gesù, dopo aver lavato i piedi con le lacrime. E non era lì di fronte in una posizione semplice, era, dice la Luca, no, nella sua fotografia, dice che era dietro Gesù e bagnava i piedi di Gesù con le sue lacrime, li asciugava con i capelli. Cioè, credo che fosse una situazione molto, molto particolare. In più, decide di onorare Gesù con l'unzione di questo olio preziosissimo, portando questo vaso. In un altro racconto, questo vaso si rompe. È un momento quasi direi intimo, è un momento così unico tra Gesù e la donna. È questo riflettore enorme che si posa su queste due figure e tutti quanti sono lì, in silenzio. Passano i pensieri, no? C'è gente che inizia un po' ad immaginare cosa sta succedendo. No, noi abbiamo sempre bisogno di capire. Non c'era niente da capire, c'era una persona che stava amando, che diceva, se la mia unica speranza, io non ho nient'altro che se voler essere accettata da te, nessun altro mi accetterà se non tu, Gesù. Aveva sentito parlare di Gesù, sapeva che Gesù era qualcuno di importante a cui poter dedicare l'unica cosa che aveva, tutta se stessa, tutto quello che aveva. È un vaso di alabastro pieno di olio di nardo. E arriva questo momento in cui dicono a Gesù, perché non fai niente? Non c'era bisogno di intervenire. Forse a me avrebbe messo fortemente in imbarazzo, non so, mentre sono con qualcuno di importante che mi ha invitato a casa sua e vedo una persona estranea, una donna che viene da me e fa questo gesto, io resterei fortemente imbarazzato. Gesù no, ha fatto. Perché in quel momento c'era una forma di amore disinteressato e totale. Gesù ha apprezzato e accolto quel gesto di amore totale. O come direbbe qualcuno, total, no? Si dice, adesso si usa dire così. È così importante conoscere e andare ad approfondire questo, perché Gesù accetta quel gesto di amore così totalizzante, perché accetta quel dono così prezioso. Perché per Gesù l'amore non si può amare a metà, si può amare solamente in un modo. Ed è totalizzante, perché che cosa si aspetta Gesù da te? Che cosa si aspetta Gesù da me? Tutto. Tutto. Ripeto, tutto. Perché? Perché lui ha amato con tutto se stesso. Ha dato tutto. Non ha pensato di risparmiarsi o di dare una parte di se stesso o trovare uno stratagemma per salvare l'umanità. Lui ha amato con tutto se stesso, no? Conoscete il passo dei Filippesi? No, non si aggrappò, no, gelosamente all'idea di essere Dio, ma anzi spogliò se stesso. E questo ci insegna il suo modo di amare. Non c'è un altro modo. È strano, può essere per te un po' imbarazzante, può essere esagerato, ma poi quello che Dio si aspetta da te è che tu lo ami, che tu lo ami in maniera totale. E io trovo che questo mette me in difficoltà, per primo, che sto parlando a voi. Io ho dovuto, sono ancora in crisi nell'idea di dover considerare questo messaggio per me, perché io non ho ancora capito come amare con tutto me stesso Gesù. No, eppure è chiaro, no? Conosciamo bene i passaggi che ci parlano che come dobbiamo amare Dio, con tutto il nostro cuore, anima, corpo, forza, no? Giusto? con tutto noi stessi. Gesù si aspetta questo. E io ho davvero difficoltà a metterlo in pratica. Vedo invece questa donna che non ha paura di mettersi in gioco, non tanto se per la scena in sé, perché rendiamoci conto, ha sfidato il pregiudizio di tutti, ha sfidato tutte le persone che erano lì a guardarla, ma non è questa la parte importante. La parte importante è che in questo gesto lei stava scommettendo tutta la sua vita. Tutto da allora in poi sarebbe cambiato. E se non succedeva? Non era un rischio alto? Eppure ha avuto totale fiducia in Dio, in Gesù, in quel momento che era lì davanti a lei, e Gesù stesso premia quella fiducia, dice: la tua fede ti ha salvato, il tuo scommettere su di me, nel tuo darti totalmente, ti ha salvata. Il suo vivere, la piena fiducia in Dio ha portato a questo compimento. È straordinario. Io trovo lì il senso di questa storia, non solo nel donare, nel dare tutto quello che aveva, nel vivere quel momento così difficile, ma nello scommettere tutto, nel dare tutto se stessa. Che cosa ha perso lì? Dignità, ha perso soldi, ha perso reputazione, ma che cosa ha guadagnato questa donna? Tutto, perché ha ricevuto in Gesù il perdono dei peccati. La sua salvezza è arrivata in quel momento. Io non so che cosa succede da quel momento in poi, perché la storia non continua, però io so solo che quella donna ha cambiato vita. Probabilmente, forse si è unita, si parla proprio nel passaggio successivo di almeno tre donne che seguono Gesù. Sono Giovanna, Susanna, Maria Maddalena. Non so se tra queste c'è anche questa donna. Sono abbastanza sicuro di sì, perché non c'era né futuro per lei se non ritornare a fare il suo lavoro, a ritornare nel suo stato di peccato. È questo che cambia il nostro punto di vista. Questo è il senso dell'amore che Gesù si aspetta da noi. E io ho molta difficoltà a considerare questo per me stesso, ve lo dico molto sinceramente, perché sono abbastanza sicuro che questo riguardi tutti noi. Il nostro modo di vedere le cose intorno a noi hanno a che fare con a essere possessivi, ok? Con le cose che abbiamo, con le persone che sono intorno a noi. È come se tutto quanto ci è dovuto e ci appartenesse, no? È questo senso che la donna ha rotto veramente di se stessa. E io credo che il punto critico di questo racconto è quanto noi siamo disposti a perdere noi stessi, proprio nelle cose che noi abbiamo, nelle cose che noi pensiamo di avere perlomeno. Se c'è una cosa che impariamo da subito, appena noi nasciamo, è questa parola qui, mio. È vero? Se avete avuto bambini piccoli nel passaggio della vostra vita, o comunque avete nipoti o bambini piccoli che conoscete, la prima cosa che loro esprimono nel loro modo di relazionare con voi è mio, mio, no, come Gollum, mio tesoro. È tutto mio. Questo perché? Perché, questo me lo sono fatto spiegare dalla dottoressa De Filippo, nonché mia moglie, a 2 anni c'è qualcosa che si concretizza nella mente del bambino, perché inizia a estendere la propria percezione attraverso le cose che sono intorno a lui. Cioè lui si identifica con le cose che sono intorno a lui, e quindi per la sua insicurezza, per cercare la propria identità, inizia a possedere le cose, inizia ad estendere il suo senso di identità attraverso le cose che lui ha intorno a sé, quindi a possedere, ad avere. Poi questo senso si affievolisce col tempo, perché nasce in noi più sicurezza, la nostra identità si forma, ad alcuni non passa mai, diciamo la verità. Vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, perché questo riempie la nostra vita. In realtà stiamo solo dimostrando che siamo tanto insicuri è che abbiamo bisogno di qualcosa che veramente riempie la nostra vita, di qualcosa che viva la nostra completezza, che ci dia la nostra identità. E questo è un po' il percorso, no? Che noi facciamo quando noi ci troviamo davanti a una situazione estrema, a una richiesta estrema. Perché se quello che Gesù si aspetta è questo amore totale, io non so neanche da dove iniziare. Perché io ho delle cose mie, io ho delle cose mie che non voglio lasciare. E no, non posso. Allora, lì dobbiamo un po' andare a rompere il nostro vaso di alabastro, perché se io inizio a considerare che già le persone che sono attorno a me sono mie, è già sbagliato. Quanto ti identifichi in questa frase, mio marito, mia moglie, i miei figli, miei? Qui faccio un piccolo passaggio, perché è un'esperienza anche che sto vivendo personalmente. Noi abbiamo due bambini fantastici e meravigliosi, però ho sempre la tentazione di considerare quelle persone come mie, come se fossero, appartenessero a me. In realtà, che tu sia un genitore adottivo o naturale, questi doni sono doni da amministrare. Sono persone che troveranno la loro identità e la loro strada, e tu hai un ruolo determinante in quanto genitore di portarli nel percorso migliore possibile. Sapete qual è, Gesù? E quando tu dici mio figlio, stai attento, perché è naturale, no? Dirlo, perché ti appartiene, è nato da te, no? Vive della tua stessa identità biologica. Ma è questo che si aspetta Dio? Che noi viviamo questo come senso di possesso sulle persone? La mia famiglia, la mia casa. La casa non è neanche tua, per la maggior parte di voi è della banca. Diciamoci la verità. Oppure di qualcun altro a cui paghi l'affitto. Grosso modo, se invece c'è la casa tua di proprietà, Dio ti benedica. Sei benedetto, è una gioia enorme che tu possa avere questo. Ed è bellissimo, va benissimo. Ma è davvero tua? Le cose che hai sono davvero tue? I soldi che hai sono davvero tuoi? O il tuo lavoro è una cosa che forse Dio ha provveduto per te perché tu possa avere delle cose da amministrare per la vita della tua famiglia e delle persone che sono accanto a te? Non la voglio mettere anche sul piano dell'incoraggiamento ministeriale, no? Eppure quel denaro che noi abbiamo è una risorsa per il regno di Dio, perché tu possa avere parte nel processo di costruire il regno di Dio. Da dove iniziamo? Iniziamo proprio da qui, dalle cose che è più semplici. E se devo iniziare a considerare cose pratiche, perché è facile perdersi in una cosa così grande, dice sì sì va bene, io voglio darti tutto Gesù, tu hai tutto, ma praticamente come lo facciamo? Allora volevo passarvi solo delle piccole idee, ed è quello che gran parte di noi già vive e già conosce come percorso anche di vita comunitaria. Il tuo donare non è solamente nel denaro, che comunque è un gesto importante, noi siamo nel mese di dono perché amo. Questa è una riflessione che io sto facendo per me. Quando dico, Signore, cosa dobbiamo dare, cosa ti aspetti per dono perché amo? E il Signore ti dice tutto. Tu che rispondi? Mi metti in crisi. Ma non sto parlando di te, non ti sto dicendo questo, ma lo dice a me, mi mette profondamente in crisi. E iniziamo dal nostro tempo. Oggi siamo in una società in cui è difficile identificare le cose degli altri, ci siamo solo noi, io, il mio tempo. È bello avere tempo per te stesso, chiaramente per alcuni magari ad averlo, però è importante che tu ce l'abbia, ma non ti aggrappare a quello considerandolo tuo. Considera che il tempo che hai è la risorsa più importante che puoi condividere con gli altri. Il tempo che puoi dare a qualcuno, ma anche per un caffè, il tempo che puoi dare a qualcuno per avere un tempo di preghiera insieme. è fondamentale. Questo è già donare, è già donare. Cosa facciamo con i nostri talenti, con le nostre capacità? Questo è quello che il Signore ci ha affidato. Diamo, non trattenere. Non è per te, ma è per il regno. È per il regno, ripeto, è per il regno. Non possiamo considerare queste cose nostre. Se mio in grammatica è un aggettivo, non abbiate paura, non ci sono voti, non c'è l'insegnamento. È un aggettivo possessivo. In termine biblico, mio è un aggettivo distruttivo. Fa ridere, ma così. È distruttivo perché distrugge la tua vera identità, perché stai solo alimentando la tua insicurezza, stai solo alimentando l'idea che non hai ancora completato la tua identità come credente. È dura da accettare, però quando noi siamo ancora lì, insoddisfatti, alla ricerca di qualcosa che noi vogliamo possedere, vogliamo avere, stiamo dicendo Gesù non sei abbastanza. Gesù non sia abbastanza. Perché è così importante conoscere il senso di questo tutto? Perché è quello che noi vivremo, anche in un'ottica dell'eternità. Quando noi saremo con Gesù, è quello che succederà. È un po' questo, lo leggiamo in Apocalisse 4, no? C'è questa scena, anche qui un po' mistica, fotografia bellissima, di questi 24 anziani, lo possiamo leggere, 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistono e furono create. Questa cosa, vi ricordate quando abbiamo parlato delle corone come premi? No? Qualche settimana fa. È vero, il nostro percorso avrà un apprezzamento, avrà una ricompensa, però guardate questi anziani cosa fanno? Le loro corone le buttano al trono davanti a Dio per dire è tuo. Anche quello che io pensavo di avere e meritare è tuo. Che gesto di umiltà. Che cosa quasi, no, dove ci si perde in questa scena, no? È quasi terrificante dire, mamma mia, sta perdendo tutto, anche quello che aveva meritato, lo sta dando. Perché questo è quello che succederà. Perché, come leggiamo anche in Primo Corinzi, c'è il verso, per favore, di 15:28. Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto, in tutti. Questo succederà. La nostra completezza sarà Lui. È Lui. E se noi non impariamo a viverlo qui, non succederà nell'eternità. Dobbiamo viverlo qui. Dobbiamo imparare a vivere questo concetto con più profondità, nelle cose pratiche che abbiamo detto, nelle cose che abbiamo appena descritto. Però facciamolo, viviamolo. Questo è il modo in cui Dio si aspetta di essere amato. Non c'è un altro modo. Non c'è una cosa a metà. Non c'è un quarto o un quinto. No. È tutto ed è bellissimo perché egli sarà tutto in tutti. La sua completezza riguarderà me, riguarderà te. Non lo so come succederà veramente, concretamente, se siamo collegati da una rete neuronica, non lo so. Però saremo tutti in Cristo e Lui sarà tutto in noi. Questa completezza di amore è quello che dovrebbe farci scoppiare il cuore di gioia, perché seppure in questa situazione sembra quasi che noi ci annichiliamo, che non esistiamo più, è l'esatto contrario, perché qui, in questo momento, quando noi abbiamo ceduto tutto di noi stessi, abbiamo dato tutto di noi stessi, abbiamo rotto tutto di noi stessi, allora la nostra identità è completa. Che cosa succede alla donna? Riguardiamo la definizione di Luca che abbiamo visto all'inizio. Luca, c'è il grafico, per favore, ci dice che la donna è una peccatrice e riceve perdono. E se il perdono cancella il peccato nel suo modo di amare, adorare e darsi completamente, nel dare fiducia del suo destino, del suo futuro a Gesù, il perdono copre il suo peccato. E qual è il risultato? Una donna. Rimane solo una donna, solo lei, nella sua identità completa in Cristo. Non c'è nessun altro modo di trovarci completi in Lui, di sentirci amati in Lui, se non dando tutto a Lui. È una logica strana, una logica che è fuori dalla nostra cultura del tempo, è fuori dalla nostra mente, è fuori da quello che noi abbiamo imparato finora. Ma dobbiamo disabituarci a considerare quello che sono le definizioni del regno e non quello che la cultura del momento, della storia ci insegna. È un lavoro duro, ma dobbiamo iniziare da qualche parte. Quando io perdo, guadagno. Quando ho perso tutto e ho dato tutto, io vivo una mia completezza. La mia identità è perfetta in Cristo. Solo allora. Sei d'accordo con me? Difficile? È difficile, ma il nostro percorso è questo. Noi viviamo proprio nell'idea di dover vivere il nostro percorso con Gesù, imparando giorno dopo giorno, costruendo il suo regno, che non riguarda noi, ma riguarda Lui. Non riguarda noi, ma riguarda Lui. È dura rompere noi stessi, è dura rompere il nostro io, ma è questo. Non possiamo neanche pensare di considerare di donare qualcosa, perché dobbiamo farlo qualcosa, se c'è un programma in chiesa che si chiama Dono perché amo, dobbiamo dare qualcosa. Non è questo. È il nostro tutto che deve far vivere il significato di quel dono. E il mio cuore è lì. Non c'è un donare e un amare, è il sinonimo. Non sono due cose diverse. Donare è uguale amare, amare è uguale donare. È la stessa cosa. Gesù ha fatto tutto per noi, si aspetta tutto da noi. Vi lascio solo qualche frase che ho scritto per sintetizzare un po' il significato di questo messaggio, molto in breve. Posso donare solo quando amo tutto di Cristo. Posso vivere solo quando vivo tutto di Cristo. E posso amare solo quando ho lasciato tutto per Cristo. Tu, non io. È questo. C'era un post proprio ieri di Porte Aperte. Voi sapete di che cosa fa Porte Aperte, no? E diceva questo. Noi non sopravviviamo a malattie e disgrazie. Noi viviamo per costruire un regno. E se moriamo, saremo in Cristo. Nel frattempo, amiamo, serviamo, doniamo per il suo regno. L'esempio di questa donna è totale e io voglio seguire questo esempio. So che è una sfida enorme, è una crisi enorme, lo so, però è un tempo in cui il Signore sta chiamando la nostra Chiesa a dei livelli che io non ho mai visto. E se sta arrivando questa sfida, io voglio accettarla, voglio capire come fare perlomeno, da dove iniziare. E nel mio piccolo, togliendo i pregiudizi riguardo a quello che io ho o non ho, perché non è mio, ma è suo, togliendo pregiudizi riguardo a quello che sono anche le cose mie, quello che possiedo, togliendo anche il mio modo di pensare riguardo all'amore. L'amore è questo, non riguarda me, riguarda sempre qualcun altro. Perciò voglio chiederti di alzarti in piedi, per favore. Abbiamo un tempo oggi con la cena del Signore. Vorrei che fosse un tempo personale in cui possiamo anche vivere riflettendo anche in questo tempo, anche se breve, di preghiera. A che punto sono con il mio concetto di amore? In che modo sto amando? In che modo posso amare? In che modo posso amare te, Gesù? È una preghiera che mi sta molto tormentando questi giorni, un po' frutto di questo messaggio, ma anche un po' frutto di questo tempo in cui davvero stiamo anteponendo noi stessi, mettendo Dio in una posizione di privilegio che si merita. È vero? Se lo merita. Se lo merita. E prego che questo tempo possa diventare una riflessione anche dell'importanza del sacrificio di Gesù. Impariamo da Lui. Se Lui ha dato tutto, posso imparare a dare tutto anch'io. Da dove iniziamo? Da oggi. Da oggi. Da chi ti sta accanto, da quello che sai, che stai amministrando. Iniziamo dal tuo tempo, inizio dal mio, inizio dai talenti, inizio da quello che so fare. Diamo, è questo che stiamo facendo, costruiamo il suo regno, costruiamo il suo regno. Amen. Signore, ti prego per questo tempo così prezioso, ti prego che tu possa parlare ai nostri cuori, darci grazia, Gesù, di vedere come tu vedi. Dacci grazia, Signore, di amare come tu ami. E per quanto davvero vediamo la strada in salita davanti a una sfida così grande, Signore, sappiamo che è una nostra decisione, te l'aspetti. Dacci grazia di conoscere il percorso e il tempo giusto, il momento giusto, l'attimo importante dove possiamo dare, dove possiamo imparare a dare, quando tu ce lo chiedi. Prendiamo esempio, Signore, da questa donna, la cui storia è scritta e noi la possiamo leggere a distanza di secoli e millenni. Grazie per l'esempio di questa donna. Vogliamo imparare da lei, vogliamo imparare una piena devozione, una piena adorazione, una piena fiducia in te, Gesù. Non vogliamo perdere l'occasione di dirti: ci fidiamo di te, Gesù. Solo così conquistiamo chi siamo, solo così viviamo in te, ci completiamo in te. Grazie, Signore, per chi tu sei oggi per me, per la Chiesa. Che cosa vuoi fare ancora? Cosa vuoi costruire ancora con noi? Che bello, Signore, che lo possiamo fare con te. Aiutaci dove non riusciamo. So che tu lo farai, Signore. E so che puoi aiutarci passo dopo passo. Ti prego per questo, nel nome di Gesù. Amen.